ricomincerà. Benvenute nello spazio autogestito del martedì femminista e lesbico di Radio Onda Rossa. Come sempre siamo Samantha e Federica. Ci avete riconosciuto, no? E questa è la trasmissione che vi accompagnerà dalle 22 alle 23. Quando eravamo pelose, ovvero storie di donne senza peli sulla lingua. Eravamo pelose. È un incontro di idee diverse e sentimenti comuni, di immagini, di colori, di suoni e di parole. Più semplicemente è un insieme di storie raccontate da donne su altre donne, naturalmente senza peli sulla lingua. Oggi vi raccontiamo qualcosa di Sarah Kane, attrice e drammaturga inglese degli anni 90. Esatto. Allora, Sarah nasce il 3 febbraio del 71 nell'Essex. Diciamo che nasce da due genitori particolari, nel senso che erano devoti angelisti e giornalisti. Il padre, tra l'altro, era il caporedattore del Daily Mirror. La madre invece decise di abbandonare qualsiasi tipo di carriera nel momento in cui Sara e il fratello nacquero, perché decise che doveva accudirli sostanzialmente. Era molto intelligente, le piaceva studiare e tifava per il Manchester. Tanto... Quale Manchester? Sono due. Ah, scusa, per il Manchester United. Sì, talmente tanto che quando, diciamo, diventerà poi la grande drammaturga che è stata... La Sarah Kane che conosciamo. Esatto. E spesso e volentieri diceva che il suo sogno era quello di avere spettatori come quelli delle partite. Diceva infatti: adoro il calcio, il livello d'analisi che si sente sugli spalti è straordinario. Mentre a teatro le persone vogliono starsene sedute in poltrona senza partecipare. E questo è un po' quello che fece del suo teatro, sì. Tentò il più possibile di coinvolgere il pubblico. Esatto, sì, sì. Già da ragazza cominciò a fare delle esperienze teatrali, prima in un gruppo locale e poi quando si trasferì all'Università di Bristol era proprio completamente intenzionata a diventare un'attrice. Sì, lei studiava infatti per recitare, insomma, anche perché si era nelle recite giovanili, nelle interpretazioni giovanili si era rivelata, no? Una buona attrice, tutto sommato, aveva fatto un buon effetto già in quel momento. Tanto che divenne popolare tra gli studenti, animandone la vita sociale e ludica, e vivendo con gioia la propria omosessualità. Già, già, però... Nonostante tutto, quando c'è qualcosa dentro che ti brucia... Qualcosa le brucia, la chiamava verso la scrittura. Esatto, e portò lentamente il percorso di Sara verso una nuova fase. Underneath the skin. here, an empty space to fill in. Well, there's so many sinking, now you gotta keep thinking you can make it through these waves. Acid, booze and ass, needles, guns and grass, lots of laughs. Everybody's saying that hell's the hippest way to go. Well, I don't think so, but I'm gonna take a look around at the blue. I love you. Shell for you, inside you'll hear a sigh, a foggy lullaby. There is your song from me. Rieccoci qui al martedì autogestito da femministe e lesbiche di Radio Onda Rossa e vi diamo qualche indirizzo se volete contattarci. Il numero di telefono è 06 49 17 50 e l'email ondarossa@ondarossa.info oppure mfla@ondarossa.info. Scusate. Ok, allora abbiamo appena sentito un pezzo di Joni Mitchell, Blue da Blue del 1971. Abbiamo voluto scegliere una canzone che fosse stata scritta nello stesso anno di nascita di Sara, insomma. E torniamo sulla vocazione che spingeva Sara alla scrittura, e nel 1994 scrive la sua prima opera teatrale, Sick, una serie di 3 monologhi che furono poi rappresentati ad Edimburgo, nei quali gli argomenti erano lo stupro, la bulimia e la sessualità. Sì, una serie di argomenti che poi torneranno spesso, no? nelle opere di Sarah Kane. Effettivamente, fin dal suo esordio, il suo teatro vive di eccessi, sia scenici che verbali, e si caratterizza subito per quello. E, fin quando nel 95 appare la sua prima vera opera completa, Blasted. Il contestatissimo Blasted. Esatto, che diciamo, no, è un po' come uno squarcio di luce improvviso in quello che era la drammaturgia inglese di quel momento. E pone proprio l'autrice, per questo motivo, al centro di un fuoco di controversie, sia come paladina di una scrittura estrema e visionaria, sia dall'altra parte come portatrice di una pulp fiction teatrale che si è ispirata solo alla violenza e all'orrore. Sì, allora, infatti anche il testo, no, la trama, diciamo, è abbastanza indicativa. Forte. Sicuramente è molto forte. Sì, racconta di Jan, un giornalista da rotocalco di mezza età, un giornalista senza scrupoli e senza più illusioni, più o meno in punto di morte, diciamo. Sembra più o che meno la sua vita sia destinata a finire. Esatto. E sceglie quindi di invitare Kate, una ragazzina disturbata, nella sua stanza d'albergo per passare con lei proprio le ultime ore della sua vita. Esatto. E se non che in questa stanza d'albergo Jan violenta ed umilia Kate, in un crescendo di sopraffazioni, che però vengono poi replicate sul protagonista stesso da un soldato che irrompe nella stanza armato e trasforma questa stanza in un campo di battaglia bosniaco. Sì, insomma, abbastanza forte dura. Come scene, esatto. E come testi. E nonostante questo, nonostante questa forza, questa brutalità, tra virgolette, nel 95 subito l'opera viene rappresentata a Londra presso i Royal Court Upstairs, per la regia di James MacDonald. proprio nell'ambito della politica di sostegno della giovane drammaturgia inglese, che poi è l'ambito che ha fatto conoscere Sarah Kane al grande pubblico. Sì, perché effettivamente in quel periodo il Royal Court cercava di portare in scena testi di giovani autori inglesi, proprio cercando di ravvivare in qualche modo quella... La scena. Sì, la drammaturgia inglese, che non è che vivesse... un soltanto buon di rendita, no, ma non viveva neanche un buon periodo, tutto sommato. E, naturalmente suscita scandali, suscita polemiche tutto questo. Addirittura il Daily Mail dice che non c'è dubbio che qualcuno si domanderà se il denaro non sarebbe stato meglio speso in un ciclo di terapia di recupero. Insomma, un bel biglietto da visita. Da visita. Sì. L'hanno subito accolta bene. Sì, la sua drammaturgia però non era così scontata, si rifaceva a una precisa tradizione di orrori scenici, diciamo così, classici nel teatro inglese, dagli elisabettiani fino ai giacobini, fino ad arrivare a quella che era la cultura anglosassone teatrale contemporanea in quel momento, quella di Edward Bond, che proprio sì. Che scende in campo proprio per aiutare. Scende in campo sua... no, ti prego. Ma invece sì, in questo senso la voglio appoggiare, perché veramente fa una scelta di stile, si posiziona e dà una chiave di lettura di Blasted che comunque rappresenta la centralità della scrittura della Kane. Sì, Blasted, che poi in italiano è stato tradotto come dannati, insomma, quindi sì, è forte una anche... traduzione... poi molto discussa. Sì, esatto. Comunque, per tornare a quello che diceva Bond, rilascia delle frasi forti nei confronti di Sarah, forti a livello di protezione. Le immagini di Blasted, disse, sono antiche, sono state viste in tutte le grandi epoche dell'arte, in Grecia, nel teatro giacobita, nel No, nel Kabuki. Il testo cambia alcune immagini, continua, ma tutti gli artisti lo fanno per riportare l'antico immaginario, modificato e non dentro la loro epoca. L'umanità di Blasted mi ha commosso, mi dispiace per quelli che sono troppo occupati o così perduti da non riuscire a vedere la sua umanità. E come scrittore di teatro sono commosso dall'abilità e dall'autorità di una scrittrice così giovane. Eh sì, dobbiamo dire che è veramente un bellissimo testo. E la Kane stessa rifiuterà l'etichetta di capofila di una New Angry Generation britannica, dicendo che credo che quello che stia succedendo nel teatro inglese in questo momento sia una cosa abbastanza speciale, che riallacciandosi proprio a quello di cui parlavamo prima, del momento in cui il Royal Court stesse dando vita a nuovi testi prodotti, ed è proprio questo quello che ci dice la Kane, che ci sono in questo momento tanti testi a Londra. Credo che il motivo per cui tutti parlino di rinascita sia dovuto al fatto che la critica pensi che quei testi sono eccezionali, mentre io direi piuttosto che ci sono testi buoni perché vengono prodotti più testi, ci sono più testi mediocri e ce ne sono pure alcuni molto molto brutti. Ma per trovare un buon testo credo sia necessario produrne un bel po' di brutti, e personalmente sono felicissima di vedermi 10 piece strazianti se tra queste ne posso trovare anche una molto buona. Spread. torniamo sempre su quando eravamo pelose, nel martedì lesbico e femminista autogestito. Abbiamo appena ascoltato i Cardigans, la canzone era Sabbath, Bloody Sabbath, dal loro primo album Life del 95, il migliore secondo me. La canzone tra l'altro è una cover di una canzone dei Black Sabbath, a cui probabilmente deve anche il titolo. E, stiamo raccontandovi qualcosa di Sarah Kane, una drammaturga inglese degli anni 90. Ed eravamo proprio arrivati a parlare di Blasted e abbiamo ancora qualche particolarità sul titolo. Pare che a chi le chiedesse se questo titolo avesse delle componenti morali o catartiche, lei rispondeva dicendo che quando aveva iniziato a scrivere questo testo il significato principale di Blasted in realtà era ubriaco, perché sapevo che avrei scritto una piece su un uomo che era costantemente ubriaco. Poi, quando ero a metà della scrittura, mi sono resa conto che era una piece sulla guerra, to blast, esplodere. E poi mi sono ricordata della Blasted Heat, la landa sferzata dal vento nel Relir. Infine, l'ultimo significato, ma di questa mi sono resa conto solo molto tempo più tardi, è quello che Blasted, in inglese, un'imprecazione molto leggera. Per me quindi il titolo è incredibilmente ricco, ma non di un particolare significato morale o etico. Per cui insomma tanti riferimenti, ma anche tanta riflessione a posteriori, tutto sommato. E come sempre tanti richiami sia alla classicità che... Sì, alla tradizione elisabettiana, di nuovo, come diciamo prima, a quella giacobita. Di nuovo alla violenza. Esatto, soltanto che lei riesce con grande maestria, con grande capacità a riportare tutto alla nostra contemporaneità. Riesce sempre a fare un perfetto confronto che le dà la possibilità infatti di prendere tantissimi spunti dalle maggiori opere teatrali e portarle nelle sue con la capacità di farle di renderle contemporanee. Infatti sì. In Dannati Jan viene accecato, così come avviene in Relir. Esatto, in Purificati Carla viene tagliata la lingua, poi le mani, come alla linea del Tito Andronico. Ma soprattutto in questo senso, se vediamo l'opera di Sara in questo senso, un ruolo centrale, esatto, ha l'opera successiva, Phaedra's Love, l'amore di Phaedra, che pare prenda proprio il suo posto. Sì, diciamo nasce proprio, no, all'interno di un progetto di riscritture mitologiche che cerca una relazione con quello che è il nostro presente. Che usa proprio il presente come per fornire uno scenario a quello che era la classicità. Ma prima di raccontarvelo ci sentiamo un altro pezzo. Thank you. Allora, abbiamo ascoltato Woman di Nene Cerri, una canzone del 96 dall'album Man. E parlavamo di Fedra's Love, la moglie di Fedra, di Sarah Kane, scritto nel 96. E anche la prima opera che decide di portare in scena lei stessa. Eh già. Questa decisione, diciamo che l'ha presa perché non era mai completamente soddisfatta di come gli altri portavano in scena le sue opere, e quindi decise proprio di fare lei questa volta la regia. Sì, infatti soprattutto lei faceva riferimento alle rappresentazioni di Dannati, Blasted appunto, che non le avevano lasciato una sensazione di completezza, cioè non aveva ritrovato sulla scena le immagini che aveva creato lei stessa, e quindi dice: così ho pensato che se avessi diretto io stessa l'amore di Fedra non ci sarebbero stati colpevoli, e se la rappresentazione non fosse riuscita sarei stata l'unica colpevole e mi sarei resa conto di quanto difficili fossero le mie immagini da mettere in scena. Però almeno era consapevole del fatto che fosse difficile mettere in scena le sue immagini. Beh, penso di sì che lo fosse, insomma. Ebbene sì. E comunque parlavamo del testo, che porta in scena in chiave pop un Ippolito giovanissimo, grasso e debosciato, che fa sesso per noia ed è perennemente sporco, solo intento a guardare la televisione e a mangiare patatine fritte. Già, al di là di questo, il rimando forte che lei fa è a Seneca, che è il punto di riferimento del suo teatro e del teatro elisabettiano in generale. E, sempre che... popolarissimo nell'ambito, sì, britannico. Sì, sempre. Infatti, insomma, anche lei, che comunque tratta temi nuovi, cioè non tanto temi nuovi quanto trova nuovi modi di raccontare delle storie, comunque tanto quanto la richiesta dei teatri londinesi, sì, che creano proprio dei progetti di, esatto, riscritture mitologiche. Lei cerca comunque, si appoggia comunque a Seneca per la scelta del punto di riferimento, insomma. E soprattutto da Seneca trae la scelta di un'ineluttabilità che è soprattutto linguistica. Cioè, cosa vogliamo, sì, dire? Vogliamo dire che trovato. Sostanzialmente lei dà una valenza molto forte alla parola, che si fa quasi azione, cioè la parola fa delle cose, fa delle azioni. Crea l'azione. Esatto. Infatti non a caso il protagonista verrà evirato da un coro di pettegole, quindi da una gente comune rappresentata da quelli che sono anche oggi i nostri talk show, che lo invitano ad uccidersi, ad evirarsi. Sì, è una... come se fosse virato dal coro stesso, dalle parole del coro, no? Però nonostante tutto il protagonista Ippolito sorride, dicendo: ce ne vorrebbero di più di momenti così, una sorta di lieto fine, quasi contento di aver trovato finalmente un'emozione capace di risvegliarlo dal suo torpore esistenziale. You get so desperate, how'd you stay alive? abbiamo ascoltato Le Hall con Malibu da Celebrity Skin del 98 e siamo sempre su Radio Onda Rossa nel martedì femminista lesbico autogestito. State ascoltando Quando eravamo pelose un giorno. perché vedi, desideri. Quando eravamo pelose, ovvero storie di donne senza peli sulla lingua. E vi stiamo raccontando qualcosa di Sarah Kane. E i nostri indirizzi, se volete contattarci, sono mfla@ondarossa.info oppure 06 49 17 50. Allora, nel 98 quindi finalmente è il momento di Cleansed, ovvero purificati. L'opera che segue Fedra Slov e che evidenzia nel maggior modo il qui e ora di un'esistenza sociale disintegrata, e elevando questa problematica ad una situazione di vita più ampia. Infatti quest'opera si svolge in un campus universitario che diviene letteralmente un campo di concentramento dominato da un mad doctor chiamato Tinker. Sì, e infatti il nome Tinker in qualche modo richiama quel giornalista che sul Daily Mirror non l'aveva trattata tanto bene. Diciamo, era il più inferocito. Sì, aveva fatto una critica abbastanza negativa. A suo modo Sara si vendica, insomma, dandogli la parte di questo... devastatore di vite. Sì, sì, come lo definisce lei, devastatore di vite, insomma. Quindi si vendica come può, anche bene, diciamo. E quindi in questa realtà paradossale di questo campus universitario diventa un blocco, la violenza diventa un blocco unico e compatto, ma come al solito nelle opere di Sarah Kane non viene soltanto messa in evidenza la violenza, ma anche l'altra faccia della medaglia, e cioè quella delle vittime. Sì, nel caso specifico di Sarah solitamente le vittime hanno difficoltà di parola e di espressione, non riescono ad esprimersi per un motivo o per un altro. Ad esempio in Blasted Kate balbettava, era una balbuziente. In Cleansed Carl viene privato dall'uso della lingua dal dottore maniaco pseudo giornalista, sempre lui. Sì, e ci sono tantissime immagini di silenzio forzato, di imposizioni di mutismo, della cancellazione della possibilità di espressione. Sì, la lingua in tutte le opere di Sarah Kane comunque è uno strumento che viene utilizzato al fine di sopraffare qualcun altro. Sì, è anche allo stesso tempo un po' un veicolo di ambiguità, a queste due facce, tutto sommato. È ambigua e, diciamo, uccide gli altri in un modo o nell'altro. E Cleansed inoltre segna il ritorno per Sarah sulla scena del Royal Court, scusate, il teatro che in qualche modo l'aveva lanciata nella scena internazionale. Eh sì, perché proprio quest'opera viene inserita fra le maggiori produzioni della stagione e viene addirittura concesso a Sarah Kane la sala principale del teatro. Ritorno in grande stile, sì. Ma è proprio in grande stile, perché infatti pare che questo dramma era tanto ambizioso nelle tematiche quanto nella messa in scena, nella sperimentazione di una nuova messa in scena. Addirittura l'Independent dirà di lei che la Kane ha spudoratamente abbassato il ponte levatoio del teatro, facendo entrare le barbarie del mondo esterno. Eh sì, e anche qui non si riferiva soltanto alle tematiche, ma anche all'uso che lei fece dello spazio teatrale scenico, un po' spregiudicato per alcuni. Sembra che infatti spiccassero alcune tra le strutture idrauliche più straordinarie che fossero mai state disegnate per un teatro londinese. Quindi il dramma, sia per quanto riguarda il tema che diciamo l'ambientazione, rappresenta un ulteriore allontanamento di Sarah da quello che era un po' il realismo, no? E anche, come poi dirà la Kane stessa, la creazione di un prodotto talmente tanto particolare da non poter essere replicato attraverso la televisione, attraverso il cinema o attraverso il romanzo. Sì, voleva creare qualcosa che non potesse in qualche modo essere ripreso, come o dire, trasformato in qualcos'altro. Proprio lei infatti dichiarerà che era adirata dalla quantità di schifezze naturalistiche che stavano uscendo e quindi decisi di scrivere un dramma che non potesse mai diventare un film, né un'opera per la televisione, né un romanzo. L'unica cosa che si poteva fare con Purificati era metterlo in scena e poi crederci o non crederci. Si potrà sostenere che non è possibile metterlo in scena, ma non potrà neanche essere trasformato in qualcos'altro. I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken, and I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Always love you and make you happy if you will only stay the same. But if you leave me to love another, you'll regret it all someday. You are my sunshine, my sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. You told me once, dear, you really loved me, and no one else could come between. But now you've left me and love another. You have shattered all of my dreams. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine. Chi non avrà riconosciuto Doris Day? Chi non l'avrà riconosciuta? Chi non l'avrà riconosciuta con You Are My Sunshine, un pezzo del 39 che però lei riprende in questo caso verso la negli anni successivi, sì, verso la fine, diciamo, degli anni 40, giochiamocela, dai, così rimaniamo un po' sul vago. E tornando a Sarah Kane, esatto, a Clancied seguì immediatamente Crave, ovvero Febbre, scritto però con uno pseudonimo, in questo caso lo pseudonimo di Mary Calvedon, messo in scena a Edimburgo sempre nel 98, quindi il 98 fu un anno particolarmente prolifico per Sara, e anche particolarmente ricco di sperimentazioni. Prima con Clancied sperimenta un nuovo modo di mettere in scena le sue opere, e adesso con quest'opera, con questa piece, grazie Federica, muta completamente l'aspetto teorico della scena, che fino ai suoi scritti precedenti era utilizzata come ring e come campo di battaglia, e invece questa volta le azioni che vi si svolgono mutano completamente il senso. Esatto, Crave parla ancora di violenza, parla di sopraffazione, però vira verso un intento più poetico, se, no? Se mi permetti, come modalità, rimanda non più, diciamo, a quel tipo di tradizione elisabettiana che dicevamo prima, ma rimanda agli ultimi testi di Beckett, ad alcune situazioni viste in Shakespeare, a volte anche alla Bibbia, dando la possibilità a Sara di togliersi questa immagine stereotipata della drammaturga che parla sempre nello stesso modo delle stesse cose, e invece continuando a dare vita a nuove opere, tra l'altro tutte sempre bellissime. Sì, questa volta lei non crea dei veri e propri personaggi, ma delle entità, delle identità un po' così indistinte, alle quali addirittura non darà un nome. Sì, chiamate semplicemente A, B, C e M, non D. E non è un personaggio. Sì, comunque quattro personaggi intrecciano le proprie storie, ancora una volta storie di violenze sessuali, identità sconvolte, di solitudini. E la cosa che sconvolge noi questa volta è la considerazione che aveva di quest'opera la stessa Kane. Sì, diciamo che Sara definisce questa come la sua opera della disperazione, mentre tutta l'altra produzione di cui abbiamo parlato adesso, perché poi sostanzialmente lei scrive cinque opere per il teatro, tutte opere positive in qualche modo. Sì, addirittura lei dichiara Blasted sulla speranza, L'amore di Fedra sulla fede e Cleansed sull'amore. Eh sì, e si stupiva invece perché il suo pubblico aveva, diciamo, interpretato in maniera diversa, cioè aveva interpretato le prime tre come depressive e l'ultima come una sorta di segno di speranza, no? Il sole dopo la tempesta in qualche modo. E infatti lei stessa dice, in realtà sono convinta che Febbre, Crave appunto, a cui manca completamente l'aspetto violento in quanto è un'opera molto silenziosa, sia il dramma più disperante che io abbia mai scritto. Ad un certo punto uno dei personaggi dice quando si è sollevato e da quel momento nasce una speranza crescente, ma in realtà tutti i personaggi hanno già rinunciato. È il primo dramma che scrivo in cui le persone dicono fanculo a tutto questo, io me ne vado. Probabilmente il punto di rottura rispetto a Cleansed sta nel fatto che mentre quest'ultimo parla del perdurare dell'amore e della salvezza che questo comporta, Crave è nato in un momento in cui io avevo smesso di avere fiducia nell'amore. We'll be right back. del 98 ancora una volta. E noi siamo arrivati all'ultimo lavoro di Sara qui a Quando Eravamo Pelose su Radio Onda Rossa, nello spazio del martedì lesbico autogestito e femminista. Sì, vi ricordiamo anche l'indirizzo se qualcuno tante volte non avesse nulla da fare e avesse voglia di mandarci una mail, e soprattutto se qualcuno avesse un grazie perché da dedicare a Sara Kane. Sì, perché magari ci piacerebbe anche oggi concludere, no, con questa piccola rubrichetta, chiamiamola così, dai, questa piccola rubrichetta in cui ognuna di noi ringrazia Sara Kane per qualcosa che ha scritto, che ha messo in scena, per un motivo che ci ha colpito in particolare. E gli indirizzi sono ondarossa@ondarossa.info. Noi vi consigliamo mfla@ondarossa.info per una facilità di controllo. Sì, l'ultimo lavoro, l'ultimo, veramente l'ultimo lavoro di Sara, Psicosi delle 4:48, è un'opera veramente radicale, più di tutte le altre di cui abbiamo parlato fino adesso. Probabilmente la più importante poi alla fine del suo percorso, soprattutto perché racconta un suicidio e anticipa di pochissimo la scelta definitiva che poi prenderà l'autrice stessa per la sua vita. Nell'opera il titolo allude proprio all'ora notturna, che secondo le statistiche è il momento di maggiore attrazione verso il suicidio, e in questa piece viene raccontato come l'identità, come comunque questo percorso porti la persona poi a prendere questa decisione, e non è indicato il genere, perché è il viaggio di un flusso di coscienza. Sì, in sostanza, no, c'è una sorta di rifiuto di sé, diciamo, senza che però la voce, le voci narranti abbiano un corpo sostanzialmente. Il testo è molto poetico, è molto più poetico di tutti gli altri che sarà scritto, ed è scandito da affermazioni categoriche di emozioni e da cataloghi di farmaci, sì, psicofarmaci che danno il ritmo a questa discesa nell'abisso della follia. Sì, appunto, è un rifiuto anche progressivo di un pur se minimo concetto di cura. Non esiste cura, esiste soltanto questo progressivo allontanarsi da sé, questo progressivo isolarsi dagli altri, e in una situazione in cui i rapporti sociali sono soltanto fonte di sofferenza. Ogni complimento, scrive Sara, si porta via un pezzo della mia anima. Sì, si allude proprio a queste mille storie, a queste voci turbate senza corpo che vengono riprese in un flusso continuo, ed è senza dubbio il dramma più fortemente autobiografico e più intimo della Kane. Proprio a questo proposito il suo agente spiegava l'atteggiamento che aveva la Kane nei confronti di quest'opera proprio mentre la stava scrivendo, e diceva che lei era scesa profondamente nella propria psiche e credo sapesse che stava scavando sempre più a fondo. Aveva delle reazioni emotive molto forti nei confronti del dramma. Capitava che un giorno mi telefonava esclamando: mi piace moltissimo, sarà veramente bello, e la settimana dopo diceva di odiarlo e che lo avrebbe bruciato. Aveva un rapporto di amore ed odio con questo lavoro, e credo si rendesse conto che la sua scrittura stava esaurendo le riserve. Sì, insomma, scrivere di suicidio, insomma, penso sia un percorso difficile, doloroso. Soprattutto per una personalità come la sua, come Sara Kane. Sì, naturalmente non bisogna avvicinarsi a quest'opera solo come se fosse l'ultimo biglietto d'addio di una suicida. Insomma, sarebbe riduttivo per Sara, per l'opera stessa, ma per tutto l'insieme il processo creativo. Sì, di tutto quello che ha scritto Sara, insomma. Anche se sì, d'altro canto lei stessa lascerà delle affermazioni, insomma, abbastanza forti all'inizio del processo creativo e durante il processo creativo stesso di quest'opera. Addirittura affermava che stava scrivendo un dramma che si chiama Psicosi delle 4:48. Ci sono delle somiglianze con Febbre, ma nel complesso è diverso. Parla di un crollo psicopatico e di quel che succede nella mente di una persona quando cadono le barriere che dividono la realtà dall'immaginazione. Quando non si ha più la capacità di capire la distinzione tra vita onirica e reale. anche da un punto di vista formale, sto cercando di violare alcune barriere in modo da portare avanti la mia ricerca nella forma e del contenuto come un tutto unico. Sto portando oltre qualcosa iniziato con febbre e non sono sicura dove andrà a finire dopo questo. Sì, in un'altra intervista, sempre rilasciata nel 98, a un anno dalla sua, da quella che poi sarà la sua scomparsa. Un anno prima. Sì, un anno prima, esatto. È un'intervista che tra l'altro mi ha colpito molto. Sara aveva raccontato: ho conosciuto una persona che ha subito Dio solo sa quante overdose e ha tentato il suicidio in qualsiasi modo. Ha una cicatrice enorme qui, mentre indica la gola, e cicatrici qui, mentre indica i polsi. Ma in realtà è più in contatto con se stessa della maggior parte delle persone che conosco. Credo che in questi momenti, quando si taglia o si prende troppe pillole, ad un tratto trovi un contatto che fa tornare la voglia di vivere. E così lei va in ospedale. La sua vita è una sequela di tentati suicidi che lei rievoca di continuo. E sì, c'è qualcosa di atroce in tutto questo, ma riesco a capirlo molto bene. Per me ha senso. So fast today, the past it seems so far away, and life squeezes so tight that I can't breathe. And every time I've tried to be what someone else thought of me, so caught up I was unable to achieve. But deep the answer, it wasn't me. And I made up my mind to define my own destiny. Fire went. What happened to everything we used to be? I hear so many cry for help, searching outside of themselves. Now I know that his strength is within me. Lauren Hill con The Miseducation of Lauryn Hill, dallo stesso album, dall'album che prende il titolo della canzone, sempre del 1998. E siamo più o meno arrivati quasi quasi alla fine, e vi abbiamo raccontato un po' la storia di Sarah Kane. E niente, per chiudere, insomma, di lei che cosa si può dire? Che è stata sicuramente una grande drammaturga del teatro di oggi e che ha avuto la grande capacità di creare delle immagini che ricostruiscono fino al minimo dettaglio gli estremi di un paesaggio con rovine in cui le persone si sopraffanno e esercitano senza pietà ogni tipo di violenza l'uno sull'altro, però dando questo messaggio come risposta ad un generale disagio, a qualcosa di più alto di soltanto lo scandalo o la provocazione. Sì, accusata all'inizio di giocare sulla provocazione, di giocare sullo scandalo, in realtà poi nel corso degli anni è stata in grado di elaborare degli stili e di farli suoi. Sì, una sua scrittura, un suo modo di portare a galla determinati temi. È molto importante l'idea di scena come luogo della catarsi, dove l'estremo orrore della realtà può venire decantato nella passione o nella sua completa assenza. Perdonate le parole così tanto grandi, ma è importante il fatto di come lei utilizzi la scena del teatro, la scena dell'opera, come momento di catarsi, sempre per il richiamo ai famosi miti a cui si è rifatta per tutta la sua produzione. Sì, ma sempre, diciamo, prendendo una posizione netta, no? Se si leggono le sue opere si ha sempre la sensazione che lei sia un po' a favore di quelle che erano le sue vittime e non dei carnefici, quindi lei a favore dei perdenti. Sì, è dalla parte dei perdenti, è una sorta di filo rosso che ritroviamo in tutti i suoi testi, no? Tra variazioni e verifiche, ma sempre molto centrali sulle vittime e sui perdenti, e per questo noi abbiamo scelto una frase che ci pare abbastanza evidente per dire questa cosa: le nostre nascite e le nostre morti sono assurde, ma le nostre vite non devono esserlo. Trovare un senso nella vita è ciò che ci rende umani. Spesso il teatro mescola immagini delle cose che dobbiamo accettare, la nostra moralità, la nostra debolezza, con immagini di ciò che dobbiamo cambiare, la nostra vita sociale quotidiana. È proprio allora che scopriamo il nostro bisogno di giustizia e non solo di cibo e vestiti. È il nostro bisogno di dare un senso alla nostra vita, e questo senso è collegato alla nostra vita. Senza di esso non saremmo umani. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I play it off, but I'm dreaming. Goodbye and con Achai, da On How Life del 99. E siamo arrivati. E siamo arrivati al momento del grazie perché. Sì, io e Samantha, come sapete, abbiamo deciso di creare una piccola rubrica in cui ringraziamo per qualche motivo la protagonista della nostra puntata. Ringraziamo anche le nostre ascoltatrici, anche se non ci hanno scritto nessun grazie perché. Vabbè, però insomma, ci le può stare. Grazie perché ci avete ascoltato. Esatto, innanzitutto grazie perché ci avete ascoltato. E poi grazie a Sarah Kane. Inizio io? Vai. E il primo grazie io mi sento di dirglielo perché è riuscita in qualche modo a darci una nuova visione del teatro, a portare nuove tematiche, ad interpretarle in nuovi modi e a cercare nuove scene per fargli da luogo. E perché è stata in grado di riportarle alla nostra contemporaneità e a toccare temi che comunque parlano di tutti quanti noi. Scusate l'emozione. No, grazie a Sara per essere stata una presenza femminile importantissima in un mondo, quello della drammaturgia, che per troppo tempo è stato colonizzato e in qualche modo continua ad esserlo solo da figure maschili. E poi io ho un grazie perché veramente veramente valido, perché io ho un grandissimo perché gli altri dicono che io ho un grandissimo problema con la punteggiatura, ma in verità non è così, ho soltanto un rapporto particolare con essa e grazie a Sarah Kane io oggi avrò la risposta inappellabile, e cioè la punteggiatura è usata per indicare un certo modo di parlare, non per soddisfare le regole grammaticali. Sì, vabbè. Sì, Sara, grazie. Samantha Kane. Grazie sicuramente a Sara, lo direbbe Bjork, che è stata ispirata da Crave Febbre per un testo molto molto profondo. Quando eravamo pelose è giunto al termine anche per questa settimana. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Vi ricordiamo l'appuntamento per martedì prossimo con lo spazio autogestito da femministe e lesbiche del martedì. Siamo un po' in ritardo, quindi chiudiamo un po' di corsa. E grazie a tutte per essere state con noi. Grazie a tutti per essere stati con noi questa sera. Ci rivediamo circa tra 2 settimane. Grazie ancora e buonanotte.